Doppio sconto, grandi saldi. Non aspettare. Scatenati con lo shopping a MacArthur Glen nella Reggia Designer Outlet e risparmia sui tuoi fashion brand preferiti con prezzi outlet ancora più scontati. Vieni a trovarci. Sabato e domenica siamo aperti fino alle 21. Belli di casa, bentornati come tutti i venerdì mattina qui su runtimeradio.it, il grande reset con me Simone Pizzi che vi faccio compagnia per una 45 di minuti insieme con chiacchiere importanti, approfondimenti, un po' di introspezione e a volte anche cose ad gazzum come potrebbe anche essere questa mattina dove atteneremo cose ad gazzum a cose un po' più, magari un po' più... non lo so, però non, diciamo che non c'è in questo venerdì mattina diciamo la voglia proprio di approfondire tantissime cose. Poi diciamo che io mi guardo e mi leggo e mi rileggo la puntata su Francesco De Gregori e mi rendo conto che io non so fatto così, cioè nel senso non so fatto per scrivermi le puntate. Sì, magari mi metto diciamo degli appunti così giusto per dare un ordine, una scaletta a determinati pensieri, però poi alla fine magari voglio cercare però a fare anche una cosa un po' più strutturata, perché diciamo ogni tanto misuriamoci con qualcosa di diverso, ma no, non ce la faccio, quindi devo trovare il modo di trasformarla in un flusso di coscienza come faccio di solito qui in questo bellissimo programma. È uscito questa mattina, avete visto, Snap Architettura Imperfetta, adesso come tutti i venerdì mattina alle ore 6 lo trovate nei vostri feed. Ci sono delle novità importanti, come sapete c'è stata già la prima puntata di Anche Senza la Schedina l'altro lunedì, insomma, che ha riscosso un certo successo dal punto di vista della partecipazione sia come team redazionale che come persone che ascoltavano, che spesso e volentieri queste cose coincidono in Runtime Radio, succede così però devo dire che mi ha fatto piacere il fatto che ci sono stati insomma dei contatti, insomma molti contatti, una presenza insomma di persone che ascoltavano, di questa idea che è ancora un'idea un po' ibrida e che piano piano poi troveremo la sua connotazione, la sua collocazione più che altro, no? Cercando di dare praticamente a questo programma una forma un po' più precisa, perché alcuni magari hanno criticato il fatto che diceva, io pensavo che fosse una cosa comica, alcuni dicevano io pensavo che fosse una cosa seria. E quindi alla fine non è né una né l'altra, perché magari comunque l'informazione te la dà, come ha detto anche il mio buon amico Cristian, ha detto vabbè, io comunque che non seguo più il calcio da tanto tempo, intanto se non altro mi aggiorna, diciamo così, poi magari mi strappa anche il sorriso perché cerchiamo di farlo in una maniera simpatica. Altre persone invece non l'hanno trovato per niente divertente, ma quello gli può starci in tutti i programmi che magari si auspicano di essere una cosa, se non stanno diciamo nelle tue corde è difficile che alla fine il programma insomma possa migliorare da quel punto di vista se non ti piace quel tipo di stile. Una cosa che forse io riconosco al programma è il fatto che ha lo stile che abbiamo sempre avuto, e questo può essere magari un pregio e un limite allo stesso tempo, perché diciamo prende il ritmo, lo stile magari da Morti di Bestemmie senza Morti di Bestemmie, cioè nel senso comunque noi i programmi in effetti li abbiamo sempre fatti così quando li facevamo organizzati, no? Pianificati anche con una struttura di regia dietro e alla fine ci siamo resi conto che magari forse conosciamo quello de stile, no? Che poi il programma possa ulteriormente prendere, diciamo, una forma, magari un'identità, questo senza dubbio, come abbiamo detto, insomma, alla fine lo abbiamo pensato per un decennio, l'abbiamo lanciato e fatto partire in 5 minuti, quindi ci sta anche, è stato un po' tipo o lo facciamo o non lo facciamo mai più, no? E quindi alla fine comunque l'abbiamo fatto partire, poi come abbiamo detto lo struttureremo, gli metteremo delle rubriche, mi sono state suggerite delle idee che io già ho dimenticato, quindi spero che la gente me le risuggerisca, perché le cose vanno appuntate nel momento in cui te le dicono, perché sennò arrivederci e grazie, voglio riscorrere tutte quante le chat. Ma soprattutto, insomma, se avete comunque delle cose da dire, dei suggerimenti, delle critiche, fatelo, in modo che insomma magari accorpiamo tutto e cerchiamo di dargli veramente un po' un format e anche delle rubriche, perché sarebbe figo, insomma, all'interno, senza considerare che magari il primo episodio è stato molto concentrato sui primi due turni del campionato, perché eravamo magari preoccupati del fatto che in 45 minuti non avevamo abbastanza materiale per riempirli, quindi sarebbe stato un po' complicato. Invece poi in realtà con due turni settimanali non solo abbiamo riempito tutto lo spazio, ma abbiamo anche rubato lo spazio alle altre cose che avevamo preparato, no? Quindi le cose un po' più tra virgolette divertenti, poi bisogna vedere se vi divertono, no? Noi ci piace l'idea, no, di fare un notiziario sportivo che dica cose che sembra che siano serie, ma poi in realtà magari non lo sono, no? Cioè nel senso che poi è un po' questo, insomma. Quindi anche in privato, se volete, quando volete, mandatemi ovviamente i vostri suggerimenti. In più ci sono delle idee che mi sono venute comunque ieri facendo un esperimento, ma dopo, insomma, la pausa magari ve ne parlo, così mi dite anche su questo un po' la vostra, proprio per cercare di dare magari alla radio un po' quella caratura, no? Un po' più di spessore. Poi vi sarete sicuramente resi conto che il lunedì l'abbiamo coperto, il mercoledì no, ora lo lasciamo un po' così questa cosa, perché magari Leo un giorno vorrà tornare, no? con il mercoledì, così come aveva detto. Però è anche vero che coprire poi magari con le repliche il mercoledì diventa un po' più complicato, e noi questa volta ci siamo riusciti, perché io ho fatto la puntata extra domenica del Grande Reset, e quindi poi alla fine comunque in qualche maniera l'abbiamo coperta, no? Cioè nel senso lo spazio l'abbiamo tappato con una replica di qualcosa, altrimenti insomma bisognerà inventarci qualcosa per il mercoledì mattina, magari una cosa piccola. Magari poi sento Michela se gli vado a provare a fare qualcosa, anche se il mercoledì immagino sia un po' un giorno complicato, perché in mezzo alla settimana col lavoro è sempre un po' un casino, anche se parliamo sempre delle 7 di mattina, però poi c'è il cane, deve andare al bagno, deve cosare, dobbiamo fare colazione e via dicendo. Considerate che noi ci siamo svegliati come dei professionisti tipo 10-15 minuti prima di questa diretta, quindi insomma vedete che l'impegno, no, il senso di partecipazione è sempre abbastanza abbondante. Comunque andiamo col primo brano, ragazzi, i brani oggi proprio completamente random. Adesso ditemi da quanto tempo non sentivate i Faith No More, da quanto tempo, forse probabilmente da decenni, probabilmente, ma questo è quello che succede ascoltando Runtime Radio. Possono uscire fuori anche i Faith No More così a caso, completamente a caso, senza che nessuno l'abbia chiesto. Comunque ragazzi, torniamo a parlare di intelligenza artificiale, poi dopo parliamo pure di quello che succederà nei prossimi mesi in Europa, così molto a grandi linee, esprimendo un mio parere personale, che è un parere molto impopolare, ma come ho già espresso altri pareri impopolari esprimerò anche questo, perché già lo sapete insomma più o meno come la vedo. Però è anche giusto che gli dia una connotazione logica, no? In un certo senso, perché io la vedo in una certa maniera, che non è semplicemente ah io la vedo così, cioè c'è sempre un senso. Comunque diciamo dell'intelligenza artificiale, di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione più volte, e i tool di intelligenza artificiale oramai ci stanno piovendo addosso da qualsiasi direzione. Pare che l'aver innescato questi meccanismi basati sul deep learning abbiano praticamente rinvigorito la creatività degli sviluppatori, cosa che non è assolutamente, perché in realtà alla fine sì, è vero, ci stanno piovendo addosso una cifra di tool, ma sono tool che si dividono in 5, 6, 7 categorie fondamentali e poi i tool sono tutti uguali, cioè nel senso è un po' come quando hai scoperto Canva per fare la grafica on web, no? E poi vedi che è uscito Adobe Express, che è praticamente lo stesso software soltanto con le funzionalità più o meno aggiunte a seconda delle cose che fa Adobe. Quindi poi fondamentalmente tu vedi che sono usciti tantissimi strumenti che sono più o meno si assomigliano, diciamo, uno all'altro e che aggiungono magari una maggiore stabilità o maggiore funzione. Quello che aggiunge praticamente la novità, insomma, che viene aggiunta ovviamente è l'opportunità di avere una chat basata sui chatbot più famosi, quindi chat GPT 4o, Claude, Gemini no, devo dire la verità, prevalentemente questi due fondamentalmente. E però ovviamente con i token, no? Cioè nel senso con l'opportunità di utilizzare, diciamo, questi strumenti fino a quel punto lì. Poi non che tu non possa utilizzare più lo strumento in sé, però non puoi più consultare o interagire con la chat che ti aiuta ovviamente a sviluppare in maniera indipendente e autonoma quello che stai facendo. E nello specifico ci sono due cose che ho scoperto negli ultimi tre giorni, no, ho scoperto è una parola grossa, una sì è una scoperta, l'altra è una cosa che già avevo provato in altre situazioni, in altri contesti, che è quello ovviamente dello sviluppo, della costruzione di codice praticamente tramite intelligenza artificiale, che già di base lo fa ovviamente una qualsiasi chatbot, che può essere appunto Gemini, Copilot, Claude, penso a Final Fantasy, Claude o ChatGPT. Soltanto che la differenza è che ovviamente queste funzioni vengono oggi installate in dei software specifici per la programmazione, la scrittura di codice. Quindi diciamo che mentre che tu vai su ChatGPT e dici: ChatGPT, scrivimi il codice per fare una pagina web dove bla bla bla bla bla bla, lui te lo scrive il codice, però poi tu devi prendere il codice, lo devi incollare in un file txt che poi rinominerai html, poi lo devi caricare sul server e via dicendo. Questi sono tool che già sono nati per sviluppare, quindi alla fine, cioè, tu puoi smanettare, correggere, sistemare, aggiungere, togliere ovviamente all'interno del codice, però in più ovviamente vengono aggiunti questi tool di intelligenza artificiale ai quali tu chiedi, fai le domande e lui sviluppa. E devo dire che avendone provati diversi, ultimamente la qualità tecnica del sviluppo sta diventando impressionante, perché chiaramente i primi tentativi che facevamo dicevamo vabbè sì, ma poi saranno pieni dei bug, saranno problemi, poi dopo li devi comunque testare, e giustamente che sia così, poi ci devi mettere mano, e questo ci sarà sempre perché è giusto che sia così. Però devo dire che gli ultimi tool che ho provato non solo individuano poi i bug, oppure tu gli dai l'errore che viene e si autofixano, sistemano, correggono, fanno e quella. Ieri ho fatto insomma diversi esperimenti per la costruzione di un sito web adatto per una web radio moderna con il player sempre visibile e via dicendo, e devo dire che è interessante perché mentre costruisce codice crea anche i file, quindi fa tutta la gerarchia ovviamente della root con tutte le cartelle sotto cartelle, ed è roba che funziona, cioè nel senso, magari insomma, magari parlando con Walter o con altre persone dice sì, ma sta roba te leva il pane dalla bocca, sì e no, nel senso che sicuramente è penalizzante per il professionista che fino all'altro ieri per fare magari una cosa, non dico semplice, ma insomma pseudo articolata, ti chiedeva X, oggi ovviamente sei a confronto con una concorrenza che, diciamo, è difficile da sostenere, no? Perché poi alla fine quello è, insomma, cioè non te lo metti a confronto con una cosa che in teoria è a costo zero, che poi non è mai a costo zero. Sapete che c'è il tizio che mi si mette a fumare davanti alla finestra ogni mattina alle 7:20. Comunque, vabbè. E praticamente, però, dall'altra parte devo dire che questi strumenti mettono a disposizione di tutte quelle persone che hanno magari l'intuizione, il senso, la creatività e via dicendo, ma non hanno le competenze e che magari non sono neanche in grado di mettere su un team che li possa aiutare ovviamente a sviluppare quella sua idea. Infatti, se voi andate su YouTube, diciamo che di questi tool tipo Bolt o tanti altri ce ne sono diversi, e diciamo che nei vari test che vengono fatti vengono anche ipotizzate applicazioni web per fare soldi, poi fondamentalmente, cioè, quindi ovviamente magari applicazioni web che offrono un servizio nel quale tu vai lì e ovviamente per ottenere poi, diciamo, il risultato finale devi comunque pagare, quindi lui ti costruisce anche tutto il codice necessario per fare questa cosa qui. E devo dire che è strano, perché è strano, però è comunque interessante. Poi è ovvio che la competenza è fondamentale nell'andare a personalizzare quello che tu fai, perché lo puoi fare sempre tramite il chatbot, ma comunque il chatbot, come abbiamo detto, ha dei token giornalieri che sono sempre molto limitati, a meno che non paghi 20, 30, 45, 50, 100 euro al mese per avere token anche illimitati. No, forse illimitati no, però insomma per avere dei token, un numero di token importante, insomma, da questo punto di vista. E questo ovviamente lo rende poi uno strumento più professionale, nel senso che alla fine tu comunque paghi qualcuno che fa per te il servizio, non lo paghi come se pagassi un professionista umano, però insomma comunque lo paghi, cioè questo è senza meno, è indiscutibile questa cosa. Ma poi alla fine ieri ho scoperto un'altra cosa. Abbiamo parlato, diciamo, di Notebook LM, no? di Google, che ha messo questa funzione riassunto audio, diciamo così, approfondimento audio si chiama, due voci solo in inglese, che io dicevo vabbè, ma all'interno di questo strumento qui a cosa può servire? In realtà poi alla fine io immaginavo che servisse come sperimentazione, no? Perché tu metti all'interno di uno strumento che serve per raccogliere delle fonti sicure, quindi delle fonti cercate da te, che per te sono sicure perlomeno, uno strumento che crea un, tra virgolette, un podcast, secondo me sta roba comunque serviva per sperimentare questa cosa del podcast. E in effetti poi alla fine è uscita fuori la magagna. Però prima di arrivare alla magagna, diciamo che la cosa interessante è che quel due voci sono in inglese su un notebook LM, alla fine l'abbiamo bypassato, perché è vero che non esiste un supporto diretto alle altre lingue, è vero che non esiste un supporto diretto tantomeno che all'italiano, ma è vero che hanno aggiunto questa funzione che è personalizza, dove tramite un prompt tu gli dai ovviamente degli ordini di configurazione e scrivendo il podcast deve essere in lingua italiana, punto. Il podcast non deve avere termini in inglese, punto. Il podcast deve avere un accento italiano, che poi in realtà fallisce un po' in questa cosa qui. E poi puoi dare anche altre istruzioni, tipo che ne so, il podcast deve essere un riassunto giornalistico. E lui ti caga fuori il file in italiano, simile a quello ovviamente in inglese, dove ci sono queste due, anche in italiano anche tre, a volte pure quattro persone, che discutono fra di loro con espressioni, ammiccamenti, sospiri, sorrisi, risatine, cose, insomma tutto quello che c'era già nella versione inglese, chiaramente meno perfetto perché c'ha tanti glitch, tanti limiti che ovviamente la versione inglese non c'ha, oltre al fatto che poi queste voci hanno un accento un po' strano, che parte ovviamente dall'accento inglese. Quindi se si riesce a ottenere un risultato verosimile, molto simile a quello inglese, ma siamo ancora lontani, pur non avendo ovviamente il supporto diretto, immaginatevi che cosa succederà quando ci sarà un supporto diretto. E questa cosa mi ha fatto venire in mente un'altra cosa ancora, che è nata un po' anche dalla discussione, da una conversazione che ci ho avuto con Walter Sbano qualche settimana fa, proprio in merito a questo strumento della creazione di podcast. E questi erano i Ramones. Ma chi è che vi fa ascoltare i Ramones alle 7 di mattina, ragazzi? Ovviamente Radio Anziano, il nostro capitano Keitarro, che ci tiene a farci sapere che lui i Faith No More l'ha messi, e quindi avrà messo sicuramente anche i Ramones, anche perché lui mette una quantità di musica spropositata, quindi per forza qualcosa che magari uno pensa di non aver sentito l'ha sentito anche a Radio Anziano. Ma comunque ci fa sempre molto piacere. Andate su YouTube, cercate Radio Anziano, iscrivetevi, attivate la campanella e ogni una o due volte a settimana, quando escono le puntate, ve le godete. È una trasmissione pseudo radiofonica che dura dagli 8 ai 12 minuti, quindi è una cosa che non vi ruba tanto tempo, ma lo potete trovare anche su Spotify, dove scrivete nella lente di ingrandimento Radio Anziano e potrebbe uscire sia il podcast che le playlist che ha fatto Radio Anziano, che, al quale insomma noi diamo sempre spazio volentieri e con tanto affetto. Dicevo dell'osservazione che abbiamo fatto con Sbano su questo podcast, su questi podcast che genera Notebook LM. E alla fine quello che ne è uscito fuori è che io dico, vabbè, ma se tu metti fuori uno strumento che lì per lì è anche simpatico, perché ci sono queste due voci digitali che conversano come se fossero delle voci umane, che comunque hanno un'inflessione della voce, che si non battibeccano, ma insomma comunque si danno il gancio uno con l'altro, i sorrisi, le cose. E si interrompono a volte, o a volte si eccitano magari alla definizione di un'idea e via dicendo. È bello, tutto bello, però chiaramente questo strumento alla fine standardizza, no? Molto. Cioè, nel senso, quanti podcast vedremo in giro che saranno fatti con questa roba qua, no? E dici, io l'ho visto in senso molto critico, ma non critico perché non lo posso fare, perché io accetto il fatto che magari una persona che magari ha le idee, ha le informazioni, ha le fonti, c'è tutto quanto, però magari non c'ha il microfono, non è buono a parlare, non c'ha la voce, qualsiasi cosa possa essere, insomma ci può stare, no? Che puoi utilizzare questi strumenti. Ma questi strumenti possono essere utilizzati un giorno quando ci saranno delle varietà. Anche se poi dopo tu dal prompt di configurazione, secondo me, gli puoi anche dare il tono, ma mo ci arriviamo un po' a questa cosa che è terribile. Terribile nel senso anche positivo, volendo, no? E, però il fatto che oggi si possa fare anche in italiano, evidentemente si poteva anche prima, però l'abbiamo scoperto da poco, a me è venuta in mente una cosa per Runtime Radio. Perché io non lo userei mai per fare un podcast, una roba del genere, però la potrei utilizzare per fare una mini rubrica magari una volta a settimana solo sulla radio, cioè che va in radio e poi a ridirci grazie, sparisce lì. Ad esempio, tantissime volte ho pensato di fare la rassegna stampa il lunedì mattina. È una cosa che volevo fare da tanto tempo, però è una cosa che da solo mi porta via tempo, energie, perché devo lì mettermi a leggere, a fare durante, sapete, insomma, che io poi ho dei miei limiti oggettivi. Però questo strumento io l'ho testato ieri sera, infatti alla fine della puntata vi farò sentire un intero piccolo episodio di 14 minuti di una ipotetica potenziale rassegna stampa basata sulle notizie di ieri. Quindi sono andato su tantissimi siti, ho raccolto tutti quanti i siti di informazione possibili, perché poi molti me li mette in rosso perché Repubblica non si può fare, il New York Times non si può fare. Poi però magari Open si può fare, Internazionale, il Post si possono fare, quindi insomma diciamo che pure lì è un po', cioè bisognerebbe lavorarci un po' per cercare poi delle fonti che noi riteniamo valide, perché insomma se no poi alla fine ce la vai a mettere il giornale è libero dentro, insomma, e non è più compatibile con quello che facciamo qui su Radio Anziano, no? Sì, su Radio Runtime Radio. E secondo me potrebbe essere una cosa interessante, che ho pensato di mettere alle 6 di mattina, praticamente prima delle repliche delle orazioni della sera prima, alle 6, poi alle 6 e un quarto parte le orazioni della sera prima, che copre praticamente la fascia oraria, perché di solito durando 45 minuti arriva intorno alle 8, dove parte poi ovviamente dove arriva alle 7, dove parte ovviamente la fascia delle 7, che è le repliche magari mie oppure anche senza la schedina, oppure anche se c'è il giorno che c'è la diretta anche senza la schedina e la trasmissione alle orazioni della sera prima sfora dei 3-4 minuti, si aspetta, insomma, non è quello, insomma, il problema che possa fare, oppure metterlo alle 8 nella fascia oraria dalle 8 alle 10 dove c'è, che è dedicata a survival hacking, oppure alle 7 a posto della Radianziano, e si splitta la Radianziano alle 6 di mattina, anche se quello un po' mi dispiacerebbe per la Radianziano, perché insomma diciamo lo ammazzeresti un pochino come tipo di programma ascoltato su Runtime Radio. Ecco, insomma, questa è un'idea che mi è venuta in mente così ad gazzum facendo questa roba qui, anche perché tra ieri e l'altro ieri io e Carlo Santagostino abbiamo fatto, io ho tirato giù podcast su qualsiasi cosa in italiano perché volevo vedere dove arrivava, e poi ovviamente più lo addestri, no, questa roba è meglio, no, tutto sommato. Quindi, visto che su YouTube poi alla fine sono usciti i prompt che devi scrivere per farlo fare in italiano, immagino ci sarà tantissima gente oggi che sta facendo questo esperimento. Ma poi tutto questo a cosa porta? Porta a Google Illuminate AI, che praticamente non è nient'altro che il software concepito all'interno di Notebook LM, solo esplicitamente fatto per la creazione di podcast, anche se lo devo ancora testare perché ho fatto la richiesta d'accesso, ma in Italia non è ancora disponibile, quindi dovrò utilizzare Opera con una VPN, dicendo io che sto in America, e provare ad utilizzarlo. Anche questo in italiano, cioè so dei prompt, poi ma vi spiegherò un po' magari nel prossimo futuro come si gestisce la cosa. Qui addirittura gli puoi dare il mood, che tipo di impronta deve avere, ovviamente la trasmissione se è più giocosa, più professionale, insomma tutta una serie di cose. Soltanto che, e questo la voglio un po' capire, si basa su un sito che raccoglie fonti giornalistiche e scientifiche, dove ci sono più di 2 milioni e mezzo di fonti, diciamo certificato da Google. Non si possono inserire, perlomeno per ora, delle fonti proprie, cioè nel senso bisogna basarci su quei 2 milioni e mezzo di contenuti che stanno all'interno ovviamente di quel sito lì, sperando che ci siano anche questioni di attualità, perché comunque se io voglio fare un podcast sull'attualità ovviamente questa cosa un po' mi penalizza, fermo restando che stiamo sempre parlando di uno strumento che iperstandardizza il modo di fare podcast, chiaramente, e anche il senso di fare podcast, perché comunque al di là di tutto non voglio sembrare un po' il becero vecchio della situazione, però secondo me il bello di fare un podcast è quello di fare il podcast. Poi è chiaro, come abbiamo detto, che non tutti hanno la voce, non tutti hanno la capacità oratoria, non tutti hanno un buon microfono, non tutti ci vogliono, magari si sentono pronti per cimentarsi una cosa del genere, ma fare un podcast o fare la web radio, cioè qual è la parte bella se non quella ovviamente di stare tu al microfono e parlare, magari interagire con le altre persone, rispondere ai quesiti, alle domande e via dicendo. E però comunque devo dire che se vogliamo considerare il fatto di avere uno strumento semi-automatizzato all'interno della radio, quindi non come podcast, io lo trovo molto interessante, perché ho sempre pensato di avere, appunto come dicevo, una rassegna stampa il lunedì mattina, oppure avere un notiziario che ne so alle 13 tutti i giorni, oppure che ne so, 2 giorni a settimana alle 13 c'è il notiziario del Runtime Radio. Anche se può sembrare un po' macchinoso, perché comunque poi devi comunque, cioè se utilizzi Notebook LM devi comunque costruire tutte quante le fonti, ogni volta devi riagganciare tutti quanti i link e via dicendo, insomma, quindi è sempre un po' una rottura, diciamo così, però insomma potrebbe essere un esperimento. Anzi, vi invito, se avete dei siti che aggregano notizie indipendenti, insomma, anche da parte, anche in giro per tutto il mondo, mandatemele, perché così continuiamo a fare la sperimentazione. Muglis, chi è che vi tira fuori queste chicche incredibili totalmente a caso su runtimeradio.it, la web radio geek? Allora, Samuel ci ha mandato un audio, adesso proviamo a sentirlo, non so se il volume sarà giusto, proviamoci. Ciao, sono Courtney Love, vi volevo dire che questo token l'ho programmato io nel 94, quindi se vuoi utilizzarlo mi devi da pagare. Ah, ok, lo devo pagare. Vabbè, mo te pago, tranquillo, che te faccio un bonifico stamattina di una ventina di pezzi da 8, che è quello che insomma, secondo me, ti meriti, ok? Non ti meriti nient'altro di più che questa cosa qui. Allora, ragazzi, io direi che di Trump, la guerra, al mondo, ne parliamo domenica mattina, probabilmente farò una live. Aspettate, sto sistemando una cosa, probabilmente farò una live e ne parleremo, torneremo a parlare di cose serie. Ma prima, ovviamente, di salutarvi, volevo semplicemente dirvi che adesso vi faccio sentire quello che è il risultato che è uscito fuori, ovviamente, da questo tentativo di costruzione, questa sperimentazione di rassegna stampa. Se l'ascoltate, e l'ascolterete anche in podcast perché rimarrà ovviamente nel contenuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace, se secondo voi è una buona idea, se può essere sviluppata, e come ho detto, se avete ovviamente dei link che aggregano notizie da parte di tutto quanto il mondo che io posso utilizzare per addestrare ovviamente Notebook LM a cercare e fare appunto queste rassegne stampa sempre più indipendenti e sempre più internazionali, quindi un po' anche al di fuori di quelle che sono le informazioni canoniche, perché io per esempio qua ci ho messo Open, che ce l'ho messo perché era uno dei pochi siti che funzionava, perché gli altri block su block, perché non sia mai che non ci speculano sopra, però a me Open, devo dire, fa schifo, cioè alcune cose sono interessanti, altre è comunque il giornale diretto da un uomo che applica sistematicamente la censura a secondo delle sue impostazioni ideologiche e via dicendo, quindi insomma fa schifo. Allora, se devo utilizzare la censura sulle impostazioni ideologiche, preferisco che siano impostazioni ideologiche di profonda ispirazione socialista piuttosto che di ebraismo, diciamo, come il nostro carissimo amico Mentano. Detto questo, quindi insomma, suggeritemi link, mandatemi roba e soprattutto ditemi che cosa ne pensate, e adesso vi lascio ovviamente a quella che è l'ipotetica rassegna stampa che potrebbe andare in onda il lunedì mattina o alle 6 o alle 7 o alle 8, e poi vediamo, no? ci si ragiona sopra, ok? Buona giornata a tutti e buon inizio fine settimana. Ciao! Pronti per una nuova immersione nel panorama italiano? Oggi ci dedichiamo alla rassegna stampa, ma come sempre andremo oltre i titoli. Scopriremo insieme le storie che hanno catturato l'attenzione in Italia, dai casi di cronaca nera che hanno scosso l'opinione pubblica alle reazioni, a volte sorprendenti, di fronte a eventi internazionali. Esatto. E come sempre cercheremo di andare oltre la superficie, analizzando le notizie da diverse angolazioni per offrirvi una prospettiva completa e stimolante. Iniziamo subito con un caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per ben 14 anni. L'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, soprannominato il sindaco pescatore. Dopo anni di silenzio finalmente ci sono stati degli arresti. 4 persone sono finite in manette. Una notizia che ha riacceso i riflettori su questo mistero irrisolto. Una svolta significativa per diverse ragioni. Angelo Vassallo era molto amato nella sua comunità, un ambientalista convinto che si batteva per la tutela del Cilento. Un uomo davvero esemplare, Sì, e l'ombra di un possibile coinvolgimento di forze dell'ordine corrotte e della criminalità organizzata ha reso questo caso ancora più intricato e doloroso. È incredibile come un piccolo comune come Polica sia diventato l'epicentro di un caso che ha scosso l'intero paese. Due dei quattro arrestati sono addirittura carabinieri. Però, il che solleva pesanti interrogativi sul ruolo delle forze dell'ordine e sulla ricerca della verità. Questo caso ci spinge a riflettere sulla complessità della giustizia e su come a volte la verità possa essere difficile da raggiungere, soprattutto quando ci sono interessi oscuri in gioco. Ma spostiamoci ora su uno scenario internazionale che ha avuto ripercussioni inaspettate in Italia: la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. Un risultato che ha generato reazioni contrastanti in Italia. Vero. Assolutamente. Alcuni settori dell'economia italiana, come quello vinicolo ed agroalimentare, temono l'impatto delle politiche protezionistiche di Trump. Capisco. Mentre alcuni politici di destra hanno espresso ammirazione per la sua figura e per il suo programma politico. Insomma, l'eco della vittoria di Trump si fa sentire anche da questa parte dell'oceano. E a proposito di politica internazionale, spostiamoci ora in Israele, dove il primo ministro Netanyahu si trova al centro di uno scandalo che potrebbe avere implicazioni anche per l'Italia. Si parla di trattative segrete fallite, di presunti insabbiamenti e di fughe di notizie che gettano un'ombra sulla gestione del potere da parte di Netanyahu. L'Italia ha stretti rapporti diplomatici con Israele, quindi è inevitabile che questo scandalo susciti un certo interesse nel nostro paese. Insomma, anche in politica estera non mancano i colpi di scena. Ma per fortuna ci sono anche notizie positive che ci scaldano il cuore. Gigi Riva, leggenda del calcio italiano, ha compiuto 80 anni e tutto il paese si è unito per celebrare Rombo di Tuono. Gigi Riva non è solo un grande calciatore, ma un simbolo per l'Italia. Un'icona sportiva. Sì, la sua storia di talento, grinta e attaccamento alla maglia azzurra rappresenta un modello per molti. I festeggiamenti per il suo compleanno sono stati un'occasione per ricordare il suo impatto sullo sport e sulla cultura italiana. Passando da un'icona nazionale al fenomeno che sta cambiando il volto del turismo, parliamo ora dell'Albania. Sembra che sempre più italiani stiano scegliendo le coste albanesi per le loro vacanze. È vero, il turismo di massa sta crescendo rapidamente in Albania, portando con sé luci e ombre. Da un lato offre nuove opportunità economiche per il paese, dall'altro solleva preoccupazioni per la sostenibilità ambientale e per l'impatto sulle comunità locali. L'Albania si trova a dover gestire un'enorme affluenza di turisti con infrastrutture che non sempre sono adeguate. Esattamente. La sfida per l'Albania è quella di sviluppare un turismo sostenibile che tuteli l'ambiente e la cultura locale, senza rinunciare ai benefici economici. Un dilemma, questo, che accomuna molte destinazioni turistiche in tutto il mondo. Bentornati a The Deep Dive. Prima della pausa ci siamo lasciati con una riflessione sul turismo in Albania e sulle sfide che deve affrontare per gestire questa nuova ondata di visitatori. Restando in tema di sfide complesse, vorrei portare la vostra attenzione su un caso che ha acceso un dibattito molto acceso in Italia: la sospensione di un professore per aver criticato il ministro dell'istruzione. Ah sì, il caso del professor Christian Raimo. Ricordo che ha usato parole piuttosto forti nei confronti del ministro Valditara. Cosa ha scatenato questa reazione così dura da parte dell'ufficio scolastico regionale? Raimo ha definito il ministro lurido e scialtrone in un post sui social media. L'ufficio scolastico ha deciso di applicare un provvedimento disciplinare, dimezzandogli lo stipendio per 3 mesi. Molti si chiedono se questa punizione sia eccessiva e se non metta a rischio la libertà di espressione, soprattutto per chi, come un docente universitario, dovrebbe poter esprimere liberamente il proprio pensiero. Capisco, da un lato c'è il diritto di critica, dall'altro il dovere di mantenere un certo decoro nelle proprie esternazioni pubbliche, soprattutto quando si ricopre un ruolo istituzionale. Un bel dilemma. E a proposito di ruoli istituzionali e di tensioni crescenti, cosa ci dici dello sciopero generale indetto dai sindacati per l'8 novembre? Il leader sindacale Landini ha addirittura parlato di rivolta sociale. Il clima è teso, non c'è dubbio. I sindacati protestano contro la manovra economica del governo, chiedendo maggiori tutele per i lavoratori e investimenti in settori chiave come la sanità e l'istruzione. Il governo, dal canto suo, difende le proprie scelte sostenendo che la manovra è necessaria per risanare i conti pubblici. La dichiarazione di Landini ha alzato la temperatura dello scontro, spingendo il governo ad accusarlo di estremismo. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. Speriamo che si trovi un punto d'incontro che soddisfi entrambe le parti, evitando ulteriori tensioni sociali. Ma per fortuna non ci sono solo notizie che parlano di conflitti e scontri. Lo sport italiano ci regala ancora grandi soddisfazioni, come dimostrano i successi di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Sinner è un talento straordinario, un vero e proprio fenomeno del tennis italiano. Alle ATP Finals sta dimostrando tutto il suo valore, battendo campioni del calibro di Djokovic. Le sue vittorie sono un'iniezione di entusiasmo per tutto il movimento tennistico italiano. E parlando di campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano, come non ricordare ancora una volta Gigi Riva, Rombo di Tuono, che proprio in questi giorni ha compiuto 80 anni. Il Cagliari Calcio lo ha celebrato con una toccante lettera aperta. Riva è una leggenda, un simbolo di un calcio fatto di passione, grinta e lealtà. La sua storia continua a ispirare generazioni di sportivi e non solo. Passando a una storia che ci fa riscoprire la bellezza dei piccoli gesti, vorrei raccontarvi di tre studentesse che hanno trovato un borsello con 15.000 euro e, senza pensarci due volte, lo hanno restituito al legittimo proprietario. Un gesto di grande onestà e altruismo che ci fa ben sperare per il futuro. In un mondo spesso dominato dall'individualismo e dalla ricerca del profitto a tutti i costi, queste ragazze ci ricordano l'importanza di valori come l'onestà, il rispetto per il prossimo e il senso civico. Un esempio davvero luminoso. Spostandoci su uno scenario internazionale, vorrei chiederti un parere sulla crisi che sta attraversando il governo tedesco. Sembra che il cancelliere Scholz abbia addirittura licenziato il ministro delle finanze. La situazione è delicata, non c'è dubbio. La crisi del governo tedesco potrebbe avere ripercussioni sull'intera Europa, data l'importanza della Germania nell'Unione Europea. Le cause sono complesse, ma tra le principali ci sono le tensioni interne alla coalizione di governo e le difficoltà nell'affrontare sfide epocali come la crisi energetica e la guerra in Ucraina. Una situazione che va seguita con attenzione, quindi. Tornando in Italia, c'è un nuovo scandalo che sta scuotendo il mondo della finanza. Il caso del broker Daniele Migani, accusato di aver truffato clienti VIP per milioni di euro. Migani è accusato di abusivismo finanziario e truffa. Le indagini sono ancora in corso, ma sembra che tra le vittime ci siano personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria. Un caso che getta un'ombra sul mondo della finanza, ricordandoci l'importanza di affidarsi a professionisti seri e qualificati quando si tratta di gestire i propri risparmi. Cambiando completamente argomento, parliamo di televisione. Amadeus, dopo l'addio alla Rai, ha debuttato sul canale 9 con una nuova edizione della corrida. Amadeus si cimenta con un programma storico della televisione italiana, cercando di riproporlo in chiave moderna. Sarà interessante vedere se riuscirà a conquistare il pubblico anche su una rete diversa dalla Rai. E a proposito di programmi televisivi che continuano a mietere successi, non possiamo non citare X Factor, che anche quest'anno sta appassionando milioni di telespettatori. X Factor si conferma una cucina di talenti per la musica italiana. La gara è avvincente, con concorrenti provenienti da tutta Italia e con storie personali diverse e coinvolgenti. Spostandoci nel mondo della tecnologia, che sta cambiando a velocità vertiginosa, vorrei parlare di OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT. Sembra che stia lavorando ad un nuovo dispositivo fisico. Dopo il successo planetario di ChatGPT, l'intelligenza artificiale che ha rivoluzionato il modo di interagire con i computer, OpenAI sembra pronta a fare un ulteriore passo avanti. Si parla di un dispositivo che potrebbe integrare l'IA nella nostra vita quotidiana in modo ancora più profondo. Una prospettiva affascinante, ma che solleva anche interrogativi sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società. Certo, l'IA è uno strumento potente che può essere utilizzato per il bene o per il male. È fondamentale sviluppare un quadro etico e normativo che ne regoli l'uso, garantendo che sia al servizio dell'umanità e non viceversa. Parlando di umanità e di legami profondi, c'è una notizia che mi ha toccato particolarmente. Una donna è morta investita da un treno mentre cercava di salvare il suo cane sui binari. Un gesto di grande amore che purtroppo si è trasformato in tragedia. Questa storia ci ricorda la forza del legame tra uomo e animale e ci invita a riflettere sull'importanza della prudenza, soprattutto in situazioni di pericolo. Torniamo a parlare di questioni concrete che riguardano la vita di tutti i giorni. Domani, 8 novembre, è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici che interesserà treni, autobus e metropolitane in tutta Italia. I sindacati protestano contro la manovra economica del governo, chiedendo maggiori investimenti nel settore dei trasporti e tutele per i lavoratori. Sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione che limiti i disagi per i cittadini, garantendo al tempo stesso il diritto di sciopero. Parlando di figure pubbliche che hanno lasciato un segno, vorrei ricordare il sindaco di Rozzano, scomparso improvvisamente a soli 60 anni pochi mesi dopo la sua rielezione. Una scomparsa che ha scosso la comunità di Rozzano. Il sindaco era molto stimato per il suo impegno politico e sociale. La sua morte ci ricorda la fragilità della vita e l'importanza di vivere ogni giorno al massimo. E a proposito di vivere al massimo e di sfidare i propri limiti, vorrei raccontarvi l'incredibile impresa di Giancarlo Pedote, il navigatore italiano, che si prepara a circumnavigare il globo in solitaria, senza scalo e senza assistenza. Un'avventura straordinaria che richiederà circa 80 giorni di navigazione in condizioni estreme. Pedote dovrà affrontare tempeste, solitudine, sfide psicologiche immense. Un esempio di coraggio, determinazione e passione per il mare. Bentornati a The Deep Dive per l'ultimo capitolo della nostra rassegna stampa e ci siamo lasciati parlando di un tema doloroso, la violenza sui minori. Purtroppo le sfide che la nostra società deve affrontare sono molte e complesse e alcune si fanno sentire in modo più immediato e concreto, come lo sciopero dei trasporti che sta creando non pochi disagi in queste ore. È vero, oggi è l'8 novembre e in tutta Italia si sta svolgendo lo sciopero nazionale dei trasporti. Treni, autobus e metropolitane sono a rischio e molti pendolari si trovano in difficoltà. Eh sì, i sindacati hanno indetto questa giornata di mobilitazione per protestare contro la manovra economica del governo e chiedere maggiori investimenti nel settore dei trasporti e migliori tutele per i lavoratori. La situazione è difficile perché da un lato c'è il diritto di sciopero, dall'altro il diritto dei cittadini a muoversi liberamente. Aspettiamo che si trovi una soluzione che tuteli entrambe le parti. Ma cambiando argomento, vorrei parlare di un tema che riguarda la salute di tutti. L'influenza australiana, che quest'anno sembra particolarmente aggressiva. Sì, l'influenza australiana sta circolando con una certa intensità. I sintomi sono simili a quelli dell'influenza classica, ma possono essere più forti e durare più a lungo. Quindi è ancora più importante vaccinarsi, soprattutto per la categoria a rischio. Assolutamente. La vaccinazione è la migliore arma di prevenzione non solo per proteggere se stessi, ma anche per limitare la diffusione del virus. Parlando di virus e di malattie, c'è una notizia che ha destato un certo allarme. Un caso di malaria autoctona a Verona. Un evento raro in Italia dove la malaria era stata debellata da tempo. La causa sembra essere la presenza di zanzare infette, probabilmente arrivate nel nostro paese attraverso viaggiatori provenienti da zone endemiche. Un campanello d'allarme che ci ricorda come la globalizzazione e i cambiamenti climatici possano esporci a nuovi rischi sanitari. È importante monitorare la situazione e intensificare le misure di prevenzione per evitare la diffusione della malattia. Ma lasciamo per un attimo il mondo della cronaca e spostiamoci in un ambito più leggero. A Napoli è stato inaugurato il GAM, il museo del videogioco più grande d'Italia. Un'iniziativa interessante che celebra la cultura videoludica, un fenomeno in continua espansione che ha ormai un impatto significativo sulla società. Il GAM offre un percorso interattivo che ripercorre la storia dei videogiochi, dalle origini ai giorni nostri, con postazioni di gioco e mostre tematiche. Un'occasione per scoprire un mondo affascinante e per riflettere sull'evoluzione del linguaggio videoludico e sul suo ruolo nella cultura contemporanea. Parlando di cultura, non possiamo non citare il Festival del Cinema di Torino, che anche quest'anno ha richiamato grandi nomi del cinema internazionale. Il Festival di Torino si conferma un appuntamento di grande prestigio, capace di attrarre autori e film di qualità da tutto il mondo. Un'occasione per celebrare il cinema e per riflettere sul suo ruolo nella società contemporanea. E per concludere la nostra rassegna stampa con una nota di speranza e di ottimismo, vorrei parlarvi di un progetto davvero speciale. A Pavia, un gruppo di universitari ove si estende 5 ha dato vita a un progetto di co-housing intergenerazionale. Un'iniziativa innovativa che promuove la solidarietà e l'integrazione tra generazioni diverse. Studenti e anziani vivono insieme in uno stesso edificio, condividendo spazi comuni e attività, creando un ambiente di mutuo sostegno e arricchimento. Un modello di convivenza che potrebbe essere replicato in altre città, offrendo nuove soluzioni abitative e sociali. E con questa bella immagine di condivisione e di solidarietà si conclude la nostra rassegna stampa. Ci auguriamo che questa panoramica sul panorama italiano vi abbia offerto spunti di riflessione e vi abbia incuriosito. Grazie per averci seguito in questo viaggio attraverso l'Italia. Runtime Radio non è semplicemente una web radio. Il nostro progetto nasce come realtà di aggregazione di tantissimi programmi nati in podcast. Il podcast è e resterà sempre il nostro core fondamentale. Cerca Runtime Radio su Spreaker.com e troverai tutti i nostri programmi. Runtime Radio, quelli che sono arrivati per primi. Sconto, grandi saldi. Non aspettare. Scatenati con lo shopping a MacArthur Glen nella Reggia Designer Outlet e risparmia sui tuoi fashion brand preferiti con prezzi outlet ancora più scontati. Vieni a trovarci. Sabato e domenica siamo aperti fino alle 21.